merda questo casino. Gigio, chi è che c'è qua? Sei avanti? Ehi Arturo, buonasera. Allora. Buonasera Gio Marito, allora. Tutto bene? Sì, quello è bene, quello è male, Gigi ha ragione. E cosa ci vuoi fare? Piano piano si va avanti, dai. La vita lo sai come è. Purtroppo è così, però lo sappiamo che la vita è, bisogna andare sempre avanti, finché si va. Finché si va. Già l'ho saputo quella situazione, là. Ci sono passato anch'io e so cosa vuol dire. Infatti, già l'hai saputo anche tu, per cui... vabbè, ma... non puoi farci niente, quando viene bisogna andare al massimo. E cosa vuoi fare al tuo? Si va avanti, dai, si va avanti. E cosa ci vuoi fare? Nulla, non ci possiamo fare niente e basta. Purtroppo è così, anch'io purtroppo è successo quello che è successo, un bambino piccolo, per me è un casino veramente. Ma posso immaginare, lo posso immaginare che così è un problema veramente, però bisogna cercare di andare avanti il più bene che è possibile al tuo. La vita è così, non c'è niente da fare, è un attimo, siamo di passaggio, per cui succedono le cose che almeno ce ne accorgiamo. Ma pensiamo ad altro adesso, andare avanti e basta. L'importante è tu, come già sei giovane, poi se c'hai lavoro lavora e sei tranquillo. Già si fanno grandi bambini, già ci sono i parenti, per cui piano piano vai avanti a tu. I miei già sono grandi, e per cui però non mi lasciano solo, per cui già ci sono anche loro. E si va avanti, ecco, tutto lì. Capa. Avevamo un po' bucato perché non c'è un po' di stanchezza dopo. Poi è una buriescio, un po' carino, non lo so. Fino a giocare una casera. Adesso è il bicinetto. Facciamo un giro. Un carino, facciamo con una macchina. Se ne ho voglia, se no già non ci siamo a casa. Anche pure io. Ehi, altro, dai, stai lavorando, per cui ti riposi e ci va avanti, dai. Io sono stanco, non devo fare niente. Dalla Gadria all'Assala, cosa mi fa? Questa ogni tanto scendo in campagna, ma non posso fare niente, già lo sai, per cui scendo, qualche cosetta magari così già la faccio, ma non più di tanto, capito? Però tu già sei giovane, per cui c'è la vita davanti e per cui bisogna andare avanti, tutto lì. Va bene, Arturo, dai, ti lascio. Non ce la voglia di chiacchierare, mi è passata pure la cara di bambino baracchino. Però ogni tanto l'accendo, però non mi deve voler parlare, tutto lì. Però già l'accendo sempre, ascolto qualcuno e basta. Ci sentiamo, Arturo, buon proseguimento e salutoni. Ok, la modulazione, ma voi tutti che bellissima questa. Questa è l'ala 48 con le MB4. Una bomba. Già va bene, va benissimo. No, io sto usando il 6009, quello con il display azzurro. Già la fanno bene, dai, la voglia, baracchini, che deve fare? È già l'usina, l'accendi sempre uno, ma sai cosa vuoi fare? No. Ma si accende, già funzionano, per cui siamo tranquilli. Va bene, Arturo, buon prosciumetti, ciao. Ciao, ciao, come va la sua travaglia? Ok, ciao, ciao, buon tutto, ciao, ciao. E via, ma attacca il computer adesso, una mezz'oretta, e basta, boh. Abbiamo ammazzato un tempo, grazie, ciao, ciao, ciao. Hola, chi è? Marco, vieni fuori, avanti. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno, cambia? No. Attenzione, signor. Hola.